giorno c'è un'amica pronta a darvi un consiglio pratico per imparare a stare bene nel corpo e nella mente. È il Daily Lab di Essere e Benessere, il laboratorio quotidiano che con l'aiuto di esperti vi insegna a essere consapevoli delle scelte che ogni giorno ognuno di noi può fare per migliorarsi. Daily Lab, i consigli della salute, da lunedì a venerdì all'interno di Essere e Benessere e su radio24.it. In collaborazione con Natura, nutrizione scientifica. Psillogel Mega Fermenti, per il ripristino della flora intestinale, da Natura, in farmacia. Abbiamo con noi la dottoressa Sofia Rossi, direttore del personale di una banca. Quali sono i problemi nella gestione del personale? Abbiamo organizzato una coinvolgente giornata di team building sulle Dolomiti. Sì, bene, ma io mi riferivo alla gestione delle trasferte della banca ore. Come li affrontate? Stiamo rinnovando il nostro approccio coi clienti. Ho capito, però io stavo parlando di budget del personale, costo del lavoro, note spese. Ma lei non ci pensa mai? Io? Io penso al mio business. Al resto ci pensa ADP. Informazioni su adp-italia.com. Dolori cervicali, mal di testa, mal di schiena. I dolori ti fermano? Puoi provare Spididol. Spididol, passaggio rapido oltre dolori e infiammazione. È un medicinale a base di ibuprofene e sale di arginina che può avere effetti indesiderati anche gravi. In farmacia, da Zambon. Software, software per l'ufficio, come l'originale! Ma guarda, c'è anche il banchetto del software. Quasi quasi lo compro e lo installo in azienda. Proprio tu, non ci posso credere. Ma dai, scherzo. Lo sai che faccio sempre le cose in regola io e chiedo sempre lo scontrino. Allora, per avere le carte in regola nella tua impresa, la soluzione è Microsoft Office, oggi a un prezzo speciale. Essere in regola è semplice e conviene. Microsoft Office Small Business Basics 2010 è tuo in multilicenza a partire da 199 euro fino al 22 giugno. Acquistalo su microsoft.it/promo. Borse in diretta. Borse europee contrastate a metà giornata mentre regna il nervosismo in attesa del dato sul mercato del lavoro statunitense. Madrid vanta la performance migliore dopo la debolezza delle ultime sedute. L'Ibex 35 sale dell'1,7%. Anche Milano ha rialzato la testa a fine mattinata e segna un progresso dello 0,9%. Parigi è poco sotto la parità, Francoforte cede lo 0,4%, Londra lo 0,7%. Piazza Affari beneficia della riscossa dei bancari col Banco Popolare che guida i rialzi del comparto con un progresso di oltre il 3%. Vanno bene anche le Finmeccanica, più 2,3% dopo il calo di ieri. Sono invece deboli le Fiat, meno 1,1%, e le Fiat Industrial, meno 2%. Hanno invece ripreso a correre le Ferragamo, più 3% dopo lo stop delle ultime due sedute. A2A recupera oltre il 2% dopo lo scivolone messo a segno negli ultimi mesi. A riaccendere i fari sui titoli e anche la notizia del prezzo d'OPA sulla partecipata Edison a 0,89 euro. Edison guadagna lo 0,9%. Fuori dal paniere principale le Juventus segnano un progresso del 6,9% in attesa degli incontri del fine settimana che potrebbero essere decisivi per lo scudetto. Infine i cambi: l'euro è abbastanza debole, viene trattato poco sopra $1,31. Isabella Tasso da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. Si avvisano i signori passeggeri che oggi non è più necessario volare all'est per avere i propri denti low cost. Eh già, oggi in Italia c'è amicodentista.com. Professionalità e garanzia italiana al giusto prezzo. Numero verde 800 088 315. Ricostruiamo l'Italia con Bologna Fiere. SAIE, Salone Internazionale dell'Edilizia, mette in mostra il meglio nelle costruzioni all'insegna della sostenibilità. Dal 18 al 21 ottobre a Bologna Fiere, un nuovo SAIE per un nuovo costruire. L'Istituto Europeo di Oncologia ha fatto uno sforzo veramente importante per costruire un tessuto di ricerca tagliato esclusivamente alla selezione dei migliori scienziati. Questo sistema è un sistema meritorio per il Paese. Ogni aiuto che ci consenta di dare stabilità a questo sistema non è un aiuto per l'Istituto Europeo di Oncologia, è un aiuto per il Paese. Oggi il cancro si può sconfiggere. Aiutalo IEU con il tuo 5 per 1000. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Come sempre il venerdì è dedicato alla scuola. Oggi parliamo in particolare di voti. Sta facendo discutere la decisione presa dagli insegnanti in un liceo scientifico di Bergamo. A tutti 8 in condotta perché gli studenti sono considerati troppo apatici. Ce ne parla Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. Rush finale per i nostri studenti, un mese o poco più ed è fatta, la scuola chiude battente. Dunque, ultime prove invalsi, ultime interrogazioni, ultime verifiche ed ultimi voti. Ed è proprio di questo che parliamo oggi in Scuola in Controluce, perché l'argomento è sempre stato molto sensibile. A Milano il preside del liceo classico Bercesi dice contrario a voti inferiori al 4 per rimettere al centro dell'attenzione della scuola il ragazzo ed evitare così i sempre troppi abbandoni. A Bergamo poi un caso clamoroso. Un'intera classe di seconda liceo scientifico, lo scientifico Lussana, si è vista pioppare 8 in condotta al primo quadrimestre perché troppo apatici, troppo silenziosi, studiosi sì, ma nessuno che si faccia mai avanti con un'idea, una proposta, anche magari una critica. Parliamo di una classe prevalentemente femminile, perché sono le ragazze che più spesso chiedono lo studio delle due lingue come in questa sezione. Una classe di ragazze dunque di 15 e 16 anni bravine, studiosine, ma senza guizzi, come ci racconta il preside della Lussana, Cesare Quarenghi. Ragazze normalissime, però piuttosto distaccate, no? Tendenzialmente inerti, cioè non sufficientemente collaborativi, e quindi questo urta contro uno dei pilastri per cui esiste la scuola secondaria superiore, cioè il primo è quello della trasmissione degli apprendimenti, quindi l'apprendimento in sé, l'altro è lo sviluppo completo dell'humanitas, ovvero sia qualcuno preferisce no, la costituzione o la costruzione del cittadino. Insomma, sono poco collaborativi, ma che vuol dire questo esattamente? Cos'è che non fanno e cos'è che non dicono? Non entrano nella dialettica, no? Nella dialettica sufficientemente, sollecitati rispondono con molta lentezza, se rispondono, e quindi questo evidentemente ha portato il consiglio di classe a mettere in campo una serie di strategie che, non avendo dato secondo loro il sufficiente successo, hanno ritenuto che a nessuno meritasse il 10 in condotta, no? Forse qualcuno meritava il 9 in condotta, ma hanno messo in campo una sorta di responsabilità collettiva. Cioè questi ragazzi non hanno opinioni, non sono in grado di esprimere opinioni, non sono in grado di farsi avanti per proporsi. Sì, guardi, mi faccia dire solo una cosa, cioè le scuole dove c'è un clima non adeguato, evidentemente gli interessa, a queste scuole interessa soprattutto una cosa, che i ragazzi non facciano confusione, che consentano di fare lezione e roba del genere. Quindi l'apprendimento è tendenzialmente passivo e così via. Le scuole invece dove le cose funzionano abbastanza bene si pretende qualcosa di più, cioè si pretende una partecipazione attiva, critica, eccetera. Eh sì, perché questa classe in realtà secondo me è l'invidia di tantissimi professori italiani che non fanno altro invece che dire che sono classi allora turbolente, che partecipano forse addirittura troppo. Insomma, invece questa classe così non va bene, hanno 16 anni, devono imparare a dire la propria opinione e magari anche ad arrabbiarsi, a discutere. Ma certo, io sono stato professore. No, mi ricordo con piacere tutte le classi piene di energia che dovevo evidentemente incanalare, ma ricordo con molto più piacere queste classi che non quelle inerti dove bisognava dovevo mettere dentro la benzina io, certo. Non ci saranno anche degli errori dietro dei professori troppo noiosi, dei professori poco stimolanti? Perché insomma una classe reagisce anche alla lezione che si impartisce, alle parole che sente esprimere dai propri professori. Mettiamo un 8 in condotta anche a questi professori? Ma no, io non sono d'accordo perché li conosco. Questi docenti hanno fatto quello che loro ritenevano di fare e hanno fatto, io li conosco, no? E però tutto questo non ha dato il risultato che loro auspicavano. Ma è chiaro che non si può pensare, certo, tracciando cartesianamente un teorema, dico io mi impegno e quelli reagiscono. No, tu ti impegni e quelli non reagiscono ancora. Evidentemente lì c'è anche l'insufficienza umana, evidentemente. Io non... Vi siete chiesti il perché di questo atteggiamento dei ragazzi? Da che cosa dipende, secondo lei? Dai genitori, dalla famiglia, dalle troppe tecnologie? Vi siete fatti queste domande? Perché come educatori è anche giusto farsele, no? C'è anche un passaggio generazionale, per cui evidentemente c'è la necessità di entrare nella guardia di questi alunni, i quali sono sempre meno attivi in proprio, no? Come lo era stata la mia generazione, che non era vissuta ancora con i telefonini, con la televisione, eccetera, eccetera. Ecco. Questa generazione va intercettata sul suo territorio e i docenti non sempre sono in grado di farlo proprio per questo gap generazionale. Ecco, ma passati questi mesi dal primo quadrimestre, dunque dal lotto in condotta, visto lo sprone che state cercando di fare in classe, come va? Meglio, decisamente meglio. I docenti sono abbastanza contenti. Io dopo questo tourbillon ho parlato anche con i ragazzi, mi sono sembrati giustamente reattivi, ho chiesto a uno: ma tu che media hai? Ho la media del 7, quindi sei stato anche favorito avendo l'8. E lui fa: sì, non vedo dov'è il problema. Parole pesanti quelle del preside dello scientifico Lussana di Bergamo, che parla addirittura di insufficienza umana, di linguaggi che ormai fanno fatica ad incontrarsi, quelli degli adolescenti e dei docenti. Gianluca Daffi, psicologo dell'apprendimento e anche insegnante. Ma io non ho mai trovato, e per questo la notizia mi stupisce, un'intera classe che sia spenta. Ci può essere all'interno della classe qualche caso, qualche soggetto particolarmente riservato, oppure addirittura spento, diciamolo, no? Perché i compagni stessi lo riconoscono, ma che un'intera classe di quindicenni sia talmente spenta da preoccupare degli insegnanti, i quali rispondono con un voto in condotta 8 per dire: voi siete troppo, non lo so, troppo buoni, no? Troppo passivi, ecco, addirittura usando il termine che ho sentito da qualche parte, apatici, questo sinceramente mi lascia un po' stupito. Secondo lei non può essere anche un po' responsabilità degli insegnanti? Perché insomma i ragazzi vanno anche un po' sollecitati, svegliati, stimolati, no? Se questi ragazzi erano così spenti a scuola, non è possibile che queste lezioni fossero di una noia mortale? Beh, adesso io non conosco i professori, non voglio entrare nel merito, però qualche dubbio insomma ci può anche venire, anche perché quella è un'età in cui i ragazzi sono estremamente curiosi, sono molto sensibili, come faceva giustamente notare lei, alla personalità degli adulti che incontrano. Se incontrano adulti stimolanti, loro si sentono partecipi, si sentono attratti dall'adulto e quindi ovviamente non sono apatici. Al contrario, se incontrano adulti che non sono stimolanti e che in generale insomma trasmettono apatia, diventano apatici anche loro. Io credo che forse l'8 in condotta dovrebbe darlo il preside o il dirigente a questi insegnanti. Cosa avete proposto, cosa avete fatto per questa classe, oltre a dare un voto che dia ancora una volta, come dire, un giudizio su un loro comportamento che peraltro non mettono in atto, quindi è un giudizio su qualcosa non che fanno ma che non fanno. È molto bizzarro la situazione. La parola perplessità è quella che più ricorre in questa puntata di Scuola in Controluce, perché davvero non si capisce come una classe possa essere così apatica e come degli insegnanti sicuramente bravi e motivati non siano in grado di dare la scossa e risvegliare menti intorpidite, come dice il preside, forse dalle tecnologie oppure semplicemente da una scuola ormai troppo distante come linguaggio e come contenuti da questi ragazzi. Luisa Ribolzi, docente di Scienze della Formazione. Mi sembra veramente una cosa strana, non tanto la decisione che hanno preso, quanto quella di capire perché misura. Tra l'altro Lussana è un liceo che gode di ottima fama, mi lascia molto perplesso, francamente molto perplesso. Ma dietro a una classe spenta non c'è anche sempre una classe insegnante un po' spenta, secondo me? Appunto, lei? Come dicevo, mi chiedo che cosa hanno fatto gli insegnanti per stimolare i ragazzi. Cioè l'esempio che viene fatto è che l'insegnante chiede chi legge e tutti stanno zitti, però magari era meglio dire leggi tu, cioè, non lo so. L'altro quesito che mi viene in mente è che insomma una scuola può rispondere a una problematica così sfumata, così impalpabile come quella che stiamo trattando attraverso un voto? Se ha dichiaratamente una funzione di provocazione, gli insegnanti prima di prendere questa decisione hanno coinvolto i genitori, che non sembravano particolarmente entusiasti, anche se hanno accettato questa decisione, non so cosa avrebbero potuto fare altrimenti. se c'è stata una reazione positiva, mi chiedo A, che cosa è stata la reazione positiva, e B, che cosa hanno fatto gli insegnanti per mantenerla nel tempo, naturalmente. Sarebbe anzi interessante capire se gli insegnanti hanno previsto una qualche forma di controllo degli esiti della loro decisione. Un corso di recupero da questo punto di vista, un corso di recupero in interesse? La sua affermazione provocatoria come tale la prendo. Più che un corso di recupero in interesse, forse si tratterebbe di trovare delle iniziative che sono in grado di scovare quella vitalità che in un ragazzo di 15-16 anni deve esserci, perché se non ci fosse veramente gli adulti dovrebbero fare un esame di coscienza di quelli pesanti. Se sono riusciti a spegnere ogni interesse in un ragazzino di 16 anni, sia le famiglie che gli insegnanti, questo sì che mi preoccupa. È tutto per oggi, vi ricordo che Italia in Controluce torna lunedì mattina alle 6:30. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.